Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sono notti di grandi stelle a Milano e in Italia, notti di stelle all'Expo questa sera, tanto per cominciare, in attesa di quelle della Champions League, nell'Open Air Theater dell'area che ha ospitato l'Expo, due fuoriclasse a fare gli onori di casa, Andrea Bocelli che sentirete cantare e il capitano Xavier Zanetti. Buongiorno capitano. Buongiorno. Saluto anche Pardo. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Ciao. Senti Xavier, voglio che sia tu a spiegare cosa succede stasera e perché. È un grande evento questa sera perché uniamo la musica con il calcio, una idea nata un anno fa con Andrea Bocelli, per entrambe le fondazioni, sia la nostra che si occupa in Argentina e sia quella di Andrea che si occupa in Haiti. Allora sappiamo che per noi è una cosa importantissima perché dietro di questo c'è l'educazione per i bambini e speriamo che sia una grandissima serata. C'è un numero anche, il 45592, che la gente facendo un sms può donare e dare il suo contributo. Ci saranno tante persone anche del mondo del calcio, ci sarà Pelé, Ronaldo, Roberto Carlos, Stankovic, Toldo, Córdoba, Cambiasso, Allegri, Mister Ranieri, tanti che hanno voluto esserci con noi e speriamo che sia una festa per tutti. E anche tante persone del mondo della musica, un parterre de roi, no? Sì, Andrea canterà con da solo e con altri musicisti che faranno che sia una grandissima festa. Tra l'altro risulta che le cose stiano andando particolarmente bene per le vostre fondazioni, per la tua in particolare. Sì, noi dal 2001 che abbiamo iniziato devo ringraziare sempre il popolo italiano che mi dà una grandissima mano e continuiamo a fare dei progetti per questi bambini che veramente hanno bisogno. Pardo, cosa vuoi chiedere al capitano? No, ricordiamo fra l'altro che domani sera poi l'evento, se non sbaglio, va in diretta su Canale 5. Sì, su Canale 5, in diretta su Canale 5. Quindi chi non se lo può gustare dal vivo ovviamente lo può gustare in televisione e per lì... Fammi essere blasfemo, per l'Inter cosa serve? Una fondazione? Che serve? Una rifondazione serve? No. Basta qualche piccola riforma? Basta qualche piccolo innesto, sapendo che dobbiamo stare attenti anche al fair play finanziario, però credo che una base ce l'abbiamo, adesso bisogna costruire e far migliorare anche tutti quelli che magari sappiamo che possono rendere ancora di più. Sì, intanto la Juventus si porta avanti, prende Mascherano con ogni probabilità, poi ne parliamo. Si prende Mascherano è un altro bel acquisto perché stiamo parlando di un grandissimo giocatore. Comunque si va avanti con Mancini, tutto regolare. Sì. Stiamo parlando per continuare e speriamo di rafforzare questa squadra. Senti, un'ultima cosa, doppio impegno per te, c'è questa serata importantissima, ma c'è anche la finale di Champions League nel tuo stadio sabato. Sì, sabato, credo che per noi che siamo qui a Milano è un onore poter ospitare un evento così importante e speriamo di vedere una grandissima finale. Sì, sicuramente una grandissima cornice anche perché i biglietti non credo ce ne siano più. Sicuro ci sarà una bellissima cornice. Hai una favorita? No, queste partite non ci sono favorite, sono partite che vengono decise dai minimi dettagli. Grazie capitano. Ciao. Grazie. Ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. In bocca al lupo Xavier Zanetti. Assolutamente. Allora Pierluigi Pardo, oggi raccontiamo un sacco di cose, raccontiamo di come appunto c'è questa notizia per cui Mascherano è in mano alla Juventus, ma racconteremo anche e soprattutto di come oggi improvvisamente c'è stata una brusca accelerazione sul fronte commissario tecnico, perché è di questa mattina la notizia secondo cui Cairo, Torino e Ventura hanno risolto il rapporto. È stato annunciato Siniša Mihajlović, foto con stretta di mano nell'ufficio del presidente Cairo, 2 anni di contratto. E in Federcalcio è in corso un vertice per dipanare la matassa. Intanto ieri, come avrai letto come, sì, e le cose di cui parleremo, erano uscite altre storie. Sì, era uscita una storia nella quale sembrava, ovviamente sono tutte indiscrezioni, rumors da confermare, magari sono soltanto illazioni, che da parte di alcuni esponenti vicini all'area del governo ci fosse una spinta per un commissario tecnico giovane, mm-hmm, in linea con un certo storytelling, per usare, sì, l'espressione giusta, no? Di un paese che sta cercando faticosamente di rimettersi in moto, che sta puntando sui giovani, che sta rottamando, che sta mettendo i quarantenni a fare i presidenti del Consiglio. E la cosa comunque ha degli... ovviamente, ripetiamo, non è confermata, è una semplicemente una suggestione, però una suggestione giornalistica della quale si può tenere conto. E chiaramente, insomma, apre dibattito, no? Seguirà dibattito. Seguirà dibattito. Noi lo faremo, no? Seguirà dibattito. 800 24 00 24. Subito dopo il traffico parliamo di un'altra grande notte di primavera, non a Milano, non al nord, ma nella Stella del Sud. Il calcio è lo sport più bello del mondo, quando non è rovinato dai guai che derivano sempre ed esclusivamente da tutta la ricchezza e i soldi che girano dietro. Tutti convocati. Tutti convocati. Ho dedicato la mia vita, i momenti più felici, ad inseguire un sogno, il mio sogno. Quante volte mi hai deluso, non importa, io ci credo e io vivo il mio sogno. Pari, grande amore, pari, unica e sola. Da Bocelli e Xavier Zanetti per una notte magica a Milano, all'inno del Bari e a Gianluca Paparesta per un'altra notte che i baresi sperano magica. Ciao Gianluca, ciao presidente. Ciao a tutti voi e a tutti, ciao, gli ascoltatori. Bardo, stasera Bari per arrivare alle semifinali di Serie B contro il Novara. Ieri sera, sì, miracolo, Spezia che ha vinto 2-1 in casa del Cesena, e la vincente tra Bari e Novara se la giocherà con una squadra pericolosissima come il Pescara. Clima, Gianluca? Clima è quello di grande tensione, perché chiaramente è una partita secca, decisiva, sappiamo le difficoltà che ci possono essere con un avversario di grande importanza, ben attrezzato. Siamo anche consapevoli dell'importanza della posta in palio oggi e del valore dei nostri calciatori, che cercheranno sono certo di fare il massimo per proseguire un percorso che è iniziato ormai da più di 10 mesi, e che quindi siamo agli ultimi sgoccioli, e sono le partite decisive che non possono essere che affrontate con la giusta determinazione, la voglia di andare avanti per soddisfare una tifoseria eccezionale, una città che ci è tutta vicina. Senza fare della geopolitica, Pardo, Bari è la piazza più grande e importante tra quelle in lotta per incentrare l'ultimo posto che va alla Serie A. Beh, direi di sì, adesso non voglio fare il census, perché no, ci sia Bari nettamente prima, poi Pescara, immagino, e poi le altre tre che sono ancora in corso. Ti aspettavi la vittoria dello Spezia di ieri? E in qualche modo accende ulteriormente un campanello su di voi che giocate in casa questa sera, in una partita secca? Ma io credo che le partite secche, soprattutto quando si gioca in casa, non è che favoriscano tanto la squadra che gioca in casa, perché la pressione è tantissima, però ripeto, abbiamo giocatori che sono consapevoli di questa importanza, hanno la giusta esperienza e quindi sanno che oggi non ci sono alternative, dobbiamo andare avanti, l'obiettivo deve essere quello di rispondere ed essere a livello di una nostra tifoseria che proprio notizie delle ultime ore è risultata all'ottavo posto in Italia come numero di presenze, quindi davanti a oltre la metà delle squadre del massimo campionato di Serie A. Quindi è chiaro che la tifoseria e la piazza è già una piazza da Serie A. Adesso sta a noi essere all'altezza di questa tifoseria, abbiamo la possibilità, ci sono 5 partite e vogliamo che giocarsene tutte e 5, poi vedere. Sei soddisfatto? Vai Piero. Una precisazione sulla conferenza stampa alle ultime ore per rassicurare, insomma, la situazione economica a fronte di alcune illazioni, non so se vuoi specificare meglio il concetto anche da noi. Sì, no, abbiamo specificato perché sembra strano, ma nel momento in cui si avvicina al rush finale, dopo aver raggiunto i playoff, c'è una serie di situazioni strane, sembra quasi manipolate da qualcuno che voglia creare delle turbative intorno alla squadra, alla società o altro. Noi invece siamo sicuri delle nostre cose, vogliamo andare avanti, abbiamo una trattativa molto importante in corso con un imprenditore straniero e sembra quasi che queste notizie assolutamente prive di fondamento, e chi le ha pubblicate purtroppo dovrà rispondere nelle sedi e nei luoghi di competenza, sembra quasi che voglia faccia strumento di qualcuno che vuole far saltare questa trattativa. Senti Gianluca, sei soddisfatto fino in fondo di questa stagione o magari pensavi di poter arrivare dove vuoi arrivare prima? Prima cosa, e seconda cosa, quanto è importante per il Bari andare in Serie A ora e qui, subito? È importantissimo, è inutile nascondersi dietro false dichiarazioni. Per noi è importantissimo perché, ripeto, dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di una piazza e di una squadra costruita per raggiungere questo risultato. Si poteva raggiungere direttamente, sono stati più bravi Cagliari e Crotone, complimenti a loro. Adesso dobbiamo dimostrare noi di essere bravi al punto da vincere queste partite, andare avanti e cercare di giocarci davvero tutto in queste partite. Piero, non so se è un'ultima domanda per Gianluca. No, io voglio riportare le parole di mister Ventura l'altra sera, che a tutto chiedergli se lui buttava da Bari, se secondo lui la scelta giusta per la nazionale, ma forse influenzerò la risposta riportando un virgolettato di Ventura che non c'entra niente col calcio, ma che dice che quando lui va a Bari, ci va spesso, si sposerà lì il 1° giugno, anche i giorni in cui è triste, magari viene una sconfitta, la gente proprio gli mette allegria, ecco, che è un tratto tipico della barisità. Lo vedi bene come mister? A questo punto non puoi dire di no, perché se no come CT non puoi dire di no perché sarebbe scortese nei confronti. Oppure puoi anche dirlo, No, lo puoi dire, certo. No, Piero, di livello. La dimostrazione che Bari sia una piazza importante è data anche dagli allenatori che sono passati da questa piazza, che hanno fatto la storia del calcio in Italia, a partire da Antonio Conte, che ha iniziato ad allenare una piazza importante come Bari e poi ha portato il Bari in Serie A facendo grandi record e poi è volato per altre destinazioni importantissime come prima la Juventus e la Nazionale. Adesso lo stesso percorso sembra affacciarsi per Gian Piero Ventura, a cui auguro ogni bene, anche perché anche lui è legato tantissimo a questa città, sia perché ha trovato la sua compagna qui a Bari, sia perché, come lui, lo ringrazio per questo, ha detto, è una città meravigliosa. Se oggi fosse qui accanto a me, purtroppo per radio non possiamo trasmettere anche le sensazioni, sono di fronte al mare, una giornata splendida, una città che inizia a vivere con le sciarpe, con i colori bianco-rossi, questa atmosfera, credo che la migliore fortuna che si potesse avere era quella di essere guida di questa squadra. Adesso però siamo anche consapevoli che non basta questo, ma bisogna giocare e fare bene in questa partita. Un'ultima cosa, a proposito, chi ti fa più paura? Novara di questa sera, Spezia, Trapani o Pescara, tra le avversarie che restano? Novara. Novara. Perché io mi faccio un'analisi step by step. Oggi è importante innovare, l'avversario è più ostico, poi affronteremo e poi considereremo gli altri, però oggi dobbiamo pensare assolutamente ed esclusivamente a Novara, che tra l'altro, come ho detto, è una grande squadra con grandi potenzialità, e speriamo che possa però non esprimerle oggi al meglio grazie al gioco del Bari. Grazie Bocca al Lupo, grazie Gianluca, grazie per questo. Lupo. Ciao. Indovina da dove chiama Raffaele, per Luigi. Per me Raffaele è il classico che chiama da Bari. Bravo, indovinato. Oh. Stracciatissima quota. Raffaele, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per la convocazione da Bari. Stasera sarò allo stadio perché seguire il Bari, solo cantare l'inno, è un'emozione indescrivibile. Comunque volevo ringraziare Paparessa per quello che sta facendo. Un grosso in bocca al lupo al Bari e sono arci contento se Ventura allenerà la nazionale, perché ho seguito il Bari allenato da Ventura, era veramente una lipitine. Grazie e in bocca al lupo al Bari. Grazie a lei. grazie a lei Raffaele. Poi ne parliamo di Ventura, ormai sembra vicinissimo ad inchiostrare il contratto con la nazionale. Intanto, mossa decisiva, Mihajlovic ha già inchiostrato quello con il Torino, che vuol dire che il rapporto tra Torino e Ventura è stato risolto, e questa è una vicenda importante, appunto, con un retroscena che poi andremo a raccontare. È notizia invece stamattina, più tardi parleremo anche del crollo di Nibali al Giro d'Italia, di playoff di basket, di tutto quello che volete, all'800240024, numero verde. È notizia di oggi e pare confermata, arriva dalla Spagna, ma con serio fondamento. Dicevamo prima, ne parlavamo anche con Zanetti, Mascherano alla Juventus, come lo vedi? Lo vedo bene, Mascherano è tutto un giocatore molto giocatore che, come tutti sanno, nasce centrocampista e poi sposta qualche metro più dietro, e il Cafecito, il Capetto, sì, è giocatore di grandissima esperienza, ovviamente un po' avanti con l'età, lo voleva Benitez ai tempi di Napoli, nell'anno della Champions del Napoli con Benitez. Io credo che la partita chiave fu, da quello che mi risulta, Borussia Dortmund-Napoli, perché c'era un accordo di massima col giocatore che saltò dopo quella partita. Lo vedo molto bene. Quindi arriverà, dopo ne parliamo con chi è molto più esperto di mercato, però pare ci sia già l'ok del giocatore disposto a trasferirsi alla Juventus. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. 800-24-0024, numero verde. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. JP Morgan Asset Management vi presenta... State ascoltando un programma offerto da Parabrezza rotto? Carglass ripara, Carglass sostituisce. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Sento di dire che giustamente la federazione sta facendo delle valutazioni e una volta che avrà deciso per il bene della nazionale, quindi voglio dire, chiunque sarà, un in bocca al lupo. Io ho già le mie idee sull'argomento e non le ho ritirate mai, valuteremo, ho detto che decidendo in fretta magari si sbaglia, ci siamo presi, abbiamo sempre detto che decidevamo prima dell'europeo, e prima dell'europeo decideremo. Ventura? Ma non è detto, non è detto. Nella sua testa, pensa più alla nazionale o al prossimo matrimonio? Questa è una partita difficile, ma avendo la mia signora qui, in assoluto penso, mi dispiace per la federazione, ma penso per il mio matrimonio. Allora, Ventura pensa al matrimonio. Oggi sul Fatto Quotidiano, ma anche su altri giornali, tipo la Gazzetta dello Sport, io mi attengo al Fatto Quotidiano. Questo titolo: Renzi rottama anche Ventura vuole Montella. Sintesi: Tavecchio a Palazzo Chigi per un incontro sui diritti televisivi. Questo accade nei giorni scorsi. Partecipa anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti. Qualcuno suggerisce al titolare della Federcalcio di optare per una soluzione meno paludata di Ventura. È un profilo poco mediatico, un po' anziano, senza il fascino necessario per rilanciare l'immagine degli azzurri. L'ex ragioniere di Ponte Lambro, alias appunto Tavecchio, viene indicato un nome alternativo. Per Palazzo Chigi Montella ha più appeal, è più giovane, ha lavorato bene alla Fiorentina, si libererebbe volentieri dall'attuale contratto dopo una stagione molto negativa con la Sampdoria. Tavecchio è un uomo di mondo, non si sottrae ai preziosi consigli. La nomina di Ventura era imminente, il presidente della Federcalcio aveva promesso di ufficializzare il nuovo allenatore prima dell'inizio della spedizione italiana agli europei, che iniziano il 10 di giugno, questo l'avete già sentito. Ora invece l'ex tecnico del Toro non è più in cima alle presidenze della federazione. Questa la puntata scritta oggi sui giornali. Però c'è stato un colpo di scena, non so, e questo mi piacerebbe chiedere a Pierluigi Pardo e al nostro prossimo ospite, che è Antonio Padellaro, direttore editoriale del Fatto Quotidiano, che saluto. Ciao direttore. Ciao, buongiorno a tutti. Non Ciao. So quanto la svolta di oggi, così repentina, cioè Ventura che risolve il contratto con il Toro, Cairo che ufficializza l'ingaggio di Mihajlovic per due stagioni, e dicono in corso un vertice d'urgenza, grosso modo, alla Federcalcio per vedere se esce la fumata bianca. Come la leggi, Antonio? Parto io? Bisogna ovviamente capire quanto c'è di vero nelle queste indiscrezioni. Uh-huh. Perché insomma l'idea che il commissario tecnico venga in qualche modo nominato dal governo sarebbe grave. Però mi sembra insomma che allo stato attuale stiamo parlando proprio di pure illazioni. Sì. Questo è quello che mi sembra. Insomma, poi sul fatto che ci possa essere un nesso di casualità con l'accelerazione di stamattina e quello che abbiamo letto sui giornali, non lo escludo, credo sia anzi la cosa più semplice. Cioè, se la scelta è Ventura e sarà Ventura, a questo punto meglio ufficializzarlo nelle prossime ore, proprio per dimostrare che queste sono state soltanto illazioni. Poi ovviamente grande rispetto per chi l'ha scritta, cioè, ma non però è un tipo di situazione che appunto se venisse confermato sarebbe grave, perché insomma si parla giustamente tanto dell'autonomia della magistratura, ma c'è anche un'autonomia delle scelte tecniche della federazione, no? Anche questo è un potere autonomo sul quale non credo che né maggioranza né opposizione né governo dovrebbero dire la loro. Sì, questo è indubbio. Io sono d'accordo sul fatto che l'accelerazione di questi tempi possa essere stata determinata, ed è ragionevole pensarlo anche da quanto abbiamo letto oggi sui giornali. Tornato Pardo, ci sei, Pierluigi? Sono qui, sì. Me ne ero andato? Sì, te ne eri andato. No. Quindi ho parlato da solo, vuoto per 40 secondi. Bene, no, volevo sentire il direttore, che ne pensi? Allora, sì, anch'io mi sono perso qualche battuta perché è andata via la linea. Diciamo le cose, i fatti oggettivi. Noi pubblichiamo questa indiscrezione certamente, e la confermeremo domani, perché insomma le fonti che sono quelle giuste. D'altra parte mi sarei meravigliato se Palazzo Chigi avesse detto tutto vero, sì, abbiamo noi indicato il nuovo commissario tecnico. No, è arrivata puntuale la smentita, direttore. Sì, appunto. Come giustamente tu dicevi, anche altri giornali, la Gazzetta dello Sport, che diciamo il giornale più autorevole che si occupa di questioni sportive, faceva capire che c'erano state delle pressioni piuttosto forti contro l'ipotesi Ventura. Ha ragione Pardo, vediamo se Ventura viene nominato, però ecco ad horas, perché a questo punto lasciar passare troppo tempo potrebbe confermare che dei problemi grossi ci sono. Bene, ne prenderemo atto, magari ne prenderemo atto anche pensando che aver così tirato fuori questa storia poco commendevole, come si dice, avrà agevolato Ventura. Certo è che Tavecchio ieri, se non sbaglio, ha detto che non è detto Ventura, non è detto, dobbiamo pensarci. Insomma, questo pasticcio è un classico pasticcio della IGC alla Tavecchio, no? Cioè, abbiamo un presidente debole, questo lo sapevamo già quando è stato nominato, il quale così è un po' così ondeggia tra una pressione e l'altra, un presidente con una forte personalità e un forte sostegno avrebbe già, no? Avrebbe già detto il prossimo commissario tecnico è Ventura, punto e basta. D'altra parte, e chiudo questa mia osservazione iniziale, c'è anche la vicenda Conte, che poi non è stata mai, vuol dire, raccontata fino in fondo e commentata fino in fondo. Ma noi ci troviamo oggi con un commissario tecnico degli europei, che è già il commissario tecnico, è già l'allenatore del Chelsea. Cioè sono situazioni veramente pasticciate che dimostrano che non c'è saldezza di manico al vertice della federazione. Abbiamo anche una dichiarazione di oggi del presidente della Federcalcio Tavecchio, la sentiamo subito. Io non ho cambiato opinione sul tipo di allenatore per la nazionale, né lo voglio cambiare. Stiamo valutando con attenzione i pro e i contro, perché diciamo quello che andremo a creare sarà una parte tecnica che dovrà preparare i mondiali. Mi sembra che non spostino di molto i termini discussione. Io dico anche, ribadendo che se questa pressione fosse confermata sarebbe grave, che alla fine, insomma, non è che adesso Tavecchio avesse una deadline di oggi. Cioè, la risposta di Tavecchio di ieri su Ventura, innanzitutto quando gli chiedono ma è Ventura, lui dice vediamo, è chiaro che è l'unica risposta che può dare, perché altrimenti la risposta alternativa a vediamo, a non è detto, è sì, e a questo punto avrebbe dato il nome in anteprima e quindi avrebbe bruciato la notizia, non poteva fare altro. E poi insomma non è che c'è una deadline, non è che adesso, secondo me, non è che la federazione deve per forza comunicare entro le ore 15 del 25 maggio questa cosa, che di fatto tutti sappiamo perché è un'indiscrezione giornalistica che è stata fatta nelle ore scorse. Ma io ero proprio con Andrea Scanzi l'altra sera con Ventura, poi alla fine la telefonata definitiva probabilmente non era ancora arrivata, non so se sarà arrivando in queste ore. Cioè io ripeto, sarebbe grave assolutamente l'ingerenza, perché comunque insomma un commissario tecnico deve essere scelto essenzialmente per meriti sportivi, al di là del fatto che Montella è bravo, adesso non è che vuoi più bene a mio papà, però la scelta deve essere sportiva, non deve essere mediatica, condizionata da altri fattori, mi sento neanche politica, però è tanto meno politica, assolutamente, quindi questo sarebbe molto grave. In assoluto su Tavecchio, insomma, è chiaro che lui non poteva che rispondere in quel modo. Qualsiasi altra risposta significava bruciare la notizia dell'arrivo di Ventura e renderla pubblica. Penso che insomma ci saranno i tempi e verrà ufficializzato a breve. Questo è quello che penso io. Sì, un'ultima cosa, direttore Padellaro. Io sono d'accordo con Pardo quando ipotizza che ci possa essere un nesso di casualità, di conseguenzialità tra l'accelerazione di queste ore e le notizie pubblicate. Sì, ma io non è che sto lì a fare il processo a quando sarà nominato o chi sarà nominato. Io dico soltanto questo, che è sotto gli occhi di tutti. Cioè, noi dobbiamo sempre guardare i fenomeni nel loro svilupparsi, perché se vediamo soltanto l'ultimo segmento, avete ragione voi nel dire vabbè, ma vediamo quello che succede. Cioè, a voi sembra, la domanda la faccio io, a voi sembra che la presidenza di Tavecchio si sia distinta per personalità, forza, energia, decisionismo sul tema del commissario tecnico della nazionale? Ma insomma, Conte non doveva essere l'uomo, tra l'altro molto ben pagato, come è giusto che sia, tutte le vicende degli sponsor, cioè non doveva essere l'uomo che portava la nazionale italiana ai mondiali, l'uomo del futuro. Ma insomma, ma come giudicate il fatto che oggi questo qua va agli europei e che è una manifestazione molto prestigiosa e importante ed è l'allenatore del Chelsea? Non dico questo per evitare il discorso Palazzo Chigi eccetera, per dire che a me sembra un presidente debolissimo e un presidente debolissimo. E d'altra parte Conte non ha mai manifestato Chigi, non credo che resista molto. Conte non ha neanche manifestato mai tutta questa voglia di continuare la sua avventura, perché abbiamo sentito in diverse occasioni: sì, sono qui, va bene, prendo questi soldi, adesso lo faccio, poi vediamo. Ora mi chiama il Chelsea, vado là perché voglio tornare a fare la notte. Tra l'altro, dopo la famosa battuta, chiamiamola battuta tra mille virgolette, di Pogba, quando tutto il mondo, ricorderete, si indignò per quel per quella lo considero unfit, no? non in grado di gestire la federazione, Palazzo Chigi fu molto dura nei confronti di D'Avecchio. Quindi diciamo, da questo punto di vista non credo che ci sia un legame che parte da lontano, semmai ci può essere una richiesta più pragmatica legata al momento attuale, ma in quella circostanza Palazzo Chigi mi ricordo che stigmatizzò in maniera molto, molto pesante questo tipo di atteggiamento. Il commissario tecnico ha scelto per meriti sportivi. Io credo onestamente che la scelta di Conte 2 anni fa fosse una scelta brillante, nel senso che comunque era un'opportunità, aveva un ingaggio molto pesante, ma sappiamo bene che gli sponsor quell'ingaggio l'hanno pagato in maniera sostanziosa. Ci poteva essere un dubbio sul rapporto con lo sponsor tecnico, possiamo anche fare il nome, che è Puma, e con alcuni giocatori, in particolar modo con Balotelli, mi sembra che Conte si sia dimostrato assolutamente impermeabile a qualsiasi tipo di ingerenza. È chiaro che quando tu prendi uno come Conte, il rischio che lui dopo un po' si rompa le scatole, che possa avere delle offerte molto più sostanziose, ce l'hai. Quindi su questo sono d'accordo, è chiaro che non è la situazione ottimale presentarsi all'Europeo avendo in panchina il prossimo allenatore del Chelsea, non è l'ideale. Però secondo me è un po' il rovescio della medaglia, che hai puntato su un profilo alto, hai puntato su un allenatore che faceva gol a molti, che aveva avuto dei contatti con l'Inghilterra anche prima di quella famosa estate, e quindi insomma è un po' come avere una fidanzata molto bella e dover accettare il fatto che questa fidanzata molto bella possa avere tanti sguardi addosso. Così? Poi che la nazionale italiana dovrebbe, in un mondo ideale, essere considerata da un commissario tecnico come un punto di arrivo, di onore, il punto d'arrivo, questo sono perfettamente d'accordo. Questo dispiace, insomma. D'accordo, Antonio. Aggiungere una cosa: sì. Attenzione, io non lo so se D'Avecchio sarà anche il prossimo, continua a essere il prossimo numero uno della Federazione Gioco Calcio, perché non è un mistero per nessuno che Palazzo Chigi. Ma io posso anche essere d'accordo, ma penso che non sia il suo mestiere, non volesse D'Avecchio quando è stato il momento della nomina. E quindi si parla già di Vialli, per esempio. Attenzione che è una situazione molto in movimento. Occhi aperti. E vigiliamo. Grazie, direttore. Sì. Grazie a voi. Grazie Antonio Padellaro. 80024 0024, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. El dolor es inmenso. Queríamos poder llevar la Copa del Mundo otra vez para Argentina. Esta era nuestra oportunidad. Nos sentíamos así. El fútbol tiene esto y bueno, nada. Habrá que levantar la cabeza, tratar de soportar este dolor y nada más. En lo personal no le encuentro maneras de describirlo. Es lo que toca. ¿Qué va a ser? ¿Seré yo? Quizás soy yo. Queste sono parole di repertorio piene di grande dolore per Javier Mascherano. La notizia di giornata è che con ogni probabilità vestirà la maglia della Juventus, ma adesso chiederò conferma a Luca Marchetti, che saluto. Ciao Luca. Ciao. Ciao Piero. Posso dire una cosa, Volanti, 5 secondi, che volevo dirla prima. Non dimentichiamoci che il presidente della Federcalcio, no? Perché questo poi toglie purtroppo tutta una serie di candidati molto più glamour, guadagna 38.000 euro l'ordine l'anno o qualcosa di molto simile, quindi diciamo non è esattamente un tipo di stipendio col quale si diventa ricchi, ed è un lavoro che, se fatto bene, è un lavoro assolutamente full time, motivo per il quale io penso che Gravina, che è il candidato della Lega Pro, sia il favorito per l'elezione, per la ce la toccherà con D'Avecchio. Questo lo so che è un tema poco elegante, quello dei soldi, però alla è fine un tema, è una cosa che fa una certa differenza, perché è chiaro che tutto un certo tipo di candidati, cioè, o trovi veramente la chi vuole farlo per beneficenza, perché gli piace, perché accetta un ruolo onorifico, ma chiaramente non lo fa per i quattrini. A Luca Marchetti chiedo al volo un aggiornamento sulla situazione del commissario tecnico, cosa ti risulta? Situazione del commissario tecnico, cosa ti risulta? Vabbè, ne abbiamo parlato, Mihajlovic ha firmato. Non so che avete detto voi, mi risultano rallentamenti in vista determinati da pressioni che D'Avecchio sta avendo anche rispetto ad altri nomi, soprattutto rispetto ad altri nomi, e quello più portato penso sia quello di Montella. allo stesso tempo credo che Tavecchio, così mi risulta, sia molto convinto della scelta che ha fatto con Ventura, quindi la necessità è soltanto aspettare per far decantare questi ultimi ritorni sul discorso Montella. E credo che il fatto che il Torino stamattina abbia annunciato Mihajlovic e l'addio a Ventura sia significativo, perché adesso il Torino, con tutto il rispetto, non è che può annunciare un allenatore e poi trovarsi Ventura con altri 2 anni di contratto sul groppone senza aver avuto delle considerazioni importanti da parte della federazione. Questa è una mia opinione personale. Io credo scena che è il fatto che Ventura ha un'altra offerta importante. Io sono sicuro che oltre alla nazionale c'è un'altra cosa che tra l'altro gli piace, che non so, io non lo so neanche io. Potrebbe essere il Milan. Non credo sia il Milan, però comunque credo che abbia... Sicuramente non sia senza Quindi tu lavoro. Dici comunque va via da Torino. Quindi potrebbe anche rimane essere il contratto che, al Torino. Ma potrebbe anche essere appunto che Ventura abbia detto decidiamo, ci sto, ma facciamo in fretta, abbia dato la parola a Cairo. In tutto questo io credo che sia importante il lavoro che farà Lippi, Sì, certo. Perché certo, Lippi ha dato l'ok a Ventura, ma sappiamo tutti che Montella comunque era un nome che a lui interessava. Bisogna capire in questi giorni come sono i rapporti all'interno della federazione, passatemi in termini anche politici, perché alla fine anche da quella parte arrivano delle pressioni riguardo l'allenatore della nazionale. Prima si diceva siamo tutti CT, adesso probabilmente dovremmo dire vogliamo tutti fare il CT, cioè nominare Luca, il CT. In 20 secondi, Mascherano della Juventus? No, non ancora, è un nome su cui la Juventus sta lavorando, ma non è affatto semplice, perlomeno a livello di numeri. Comunque la Juve ancora non ha parlato con il Barcellona, ha incassato il sì di massima del giocatore, che comunque fra i pro ha certamente una grandissima esperienza a livello internazionale, un grandissimo carisma, quindi può essere quel giocatore che aiuta la Juventus nella continua crescita, soprattutto nel campo europeo. Di contro ha 32 anni, guadagna 6 milioni di euro netti a stagione e ha un contratto con il Barcellona fino al 2018, quindi non te lo regalano. Certo. Grazie Luca, a presto. A voi, ciao. Grazie Luca, ciao. Marchetti, saluto anche te Pierino. Ciao. Buona giornata, ci sentiamo domani con Pierluigi Pardo, ci fermiamo per il GR e poi Giro d'Italia e poi basket italiano e americano e tutto quello che volete all'800240024, questo è il numero verde. Finisce qua, senza recupero il primo tempo, gran spettacolo. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con le bolle di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, le inchieste di Giovanna Corsetti, il Vale la Pena di Alessandra Fiori e la comicità della Sora Cesira. E naturalmente ogni giorno i gialli della storia su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da... Diversissima, è amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. State ascoltando un programma offerto da... Parabrezza rotto? Carglass ripara, Carglass sostituisce. Tutti convocati. Più che tutti a Morata, le ho già detto, è un consiglio che gli ho dato, Morata ha bisogno di stare ancora alla Juventus, innanzitutto perché la Juventus è uno dei club più importanti al mondo e l'ha dimostrato sempre, soprattutto negli ultimi anni. E poi lui ha bisogno di stare alla Juventus per crescere ancora, perché non ha ancora raggiunto quel livello di equilibrio, di forza che un giocatore deve avere, perché ha ancora 23 anni. Questo è quello che ha detto lei, lui cosa ha risposto? Lui è annuito, spero che abbia capito, ma per il suo bene, veramente. Questo era Allegri che oggi ha parlato tra le altre cose anche del caso Morata. Dunque, da un lato vi abbiamo detto prima, dalla Spagna arriva questa voce secondo cui la Juventus sarebbe vicinissima a Mascherano, avrebbe già il sì del giocatore, però Luca Marchetti ci ha spiegato che ancora diverse sono le montagne da scavallare per arrivare a questo jolly difensivo argentino che ha fatto grandi fortune per la retroguardia del Barcellona. Dall'altro lato c'è Morata e qui la vicenda la conosciamo, c'è un diritto di ricompra da parte del Real Madrid con intenzione di poi cederlo al miglior offerente, dato che in Inghilterra circolano cifre che sono spaventose, sono al di là del bene e del male. E dato che a quanto pare c'è un interesse dell'Arsenal su Morata, questa situazione è ancora tutta da definire. Silvio da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Avete detto prima che arrivare a fare l'allenatore nazionale deve essere innanzitutto un onore. E giustamente mi sembra che per Conte non sia stato un onore ma un impegno di tempo, visto che aveva niente da fare, e questo ce ne siamo accorti fin dal primo giorno. Sì, è sempre stato, insomma, si è sempre fatto un po' sopportare, oppure ha sempre manifestato una certa sopportazione per il ruolo, ma abbiamo anche detto diverse volte come, insomma, in questo sono d'accordo con Pardo, nelle condizioni attuali per le nazionali serve un allenatore più risolto, un allenatore che può avere appunto la figura di Ventura, cioè uno che ha già fatto un lungo percorso nei club, uno come De Biasi, che non abbia più quel fuoco dentro che ti possa portare al grande club, cosa che Conte non ha mai fatto mistero di avere. Sono allenatori che hanno voglia e bisogno ancora di stare sul campo tutti i giorni, di inseguire grandi trofei e di inseguire anche grandi stipendi. Non a caso Ancelotti, per fare un altro nome, ha sempre detto nazionale magari un giorno con calma vediamo. Ma sono comunque allenatori che sono grosso moduli di passaggio, ed è per quello che io dico, se si vuole il grande nome, allora, come ad esempio il basket insegna, Ettore Messina, il più bravo che c'è, vice allenatore di San Antonio Spurs, guiderà la nazionale e speriamo che lo faccia attraverso il preolimpico di luglio e fino a Rio ed oltre. Però se si vuole un allenatore di grido, di grande nome, l'unica strada è quella del doppio incarico, non ci sono altre soluzioni. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, io volevo accennare un po' al discorso che ha introdotto già quello che ha parlato prima di me. Niente, sì. Innanzitutto parlare di Gita Vecchio, secondo me non è proprio la persona adatta per fare il presidente, e lo ha dimostrato con Conte prima. Seconda cosa, Conte, che a parte le sue... Conte, Riccardo, era andato a prendere comunque, e tutti avevamo appoggiato questa scelta, era andato a prendere il migliore disponibile su piazza. Quella era stata una buona mossa di Tavecchio, perché bisogna dargli onore al merito, che poi la situazione si sia dimostrata difficilmente gestibile, era anche qualcosa che si poteva prevedere. Dica. Sì, no, poi io volevo anche dire che poi adesso lo sta dimostrando ancora di più, se è possibile, che non è adatto Tavecchio, non è la persona giusta, con questa faccenda Montella Ventura, che sembra che qualcuno, diciamo quelli di Palazzo Chigi, si sia intromesso in faccende che non gli devono per niente interessare, e che questo abbia detto sì, va bene, quando aveva già un preaccordo, sì, ho sentito, però... volevo ribadire il concetto. Ora vediamo perché certo che può, deve. Ora la situazione diventa particolarmente intrigante e interessante, perché da un lato potremmo pensare che queste notizie uscite sui giornali, ripeto, non solo sul Fatto Quotidiano ma anche sulla Gazzetta, di queste presunte pressioni di Palazzo Chigi a favore di un profilo diverso da quello di Ventura, un profilo più giovane, il profilo di Montella, può essere che questo abbia accelerato la vicenda e magari favorito Ventura bruciando la candidatura di Montella. Altrimenti, se Montella sarà, vi lascio immaginare per quanto tempo ci si potrà inzuppare il pane in questa storia, tra una smentita e l'altra naturalmente. Andrei al Giro d'Italia, dove purtroppo ieri Nibali è di fatto uscito di scena dalla lotta per la maglia rosa. Vi faccio sentire l'arrivo della tappa di ieri. In rampa di lancio Alejandro Valverde, che aspetta solo le mosse di Steven Kruijswijk per iniziare il proprio sprint, finisce. Eccolo il suo qua. Lavoro Zakarin. Eccolo lo sprint lanciato ai 250 metri con Kruijswijk che è dietro nettamente in prima posizione, Alejandro Valverde che prende anche la traiettoria più larga, ma è il controllo di Valverde che va a vincere la tappa di Andalo davanti a Kruijswijk, terza posizione per Ildur Zakarin. Insomma, per Vincenzo Nibali le avvisaglie non erano buone fin dall'inizio, ma alla fine sta dimostrando un giro sbagliato. Io saluto, oltre che per Augusto Stagi, Davide Cassani, CT. Ciao Davide. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Giro sbagliato per Vincenzo Nibali, ma qualche avvisaglia e Pier Augusto ce l'ha raccontato diverse volte, si era avuta anche prima. Ma sai, Nibali non è mai riuscito a trovare una condizione al 100%, molto meglio rispetto al Trentino nella prima settimana. Si pensava che potesse crescere nella terza, perché lui era sempre riuscito a dare il meglio di sé a fine giro o a fine tour, invece è incappato in due giornate no, e quindi è uscito di classifica. Uscito di classifica no, però la maglia rosa è lontana, troppo lontana. Pier Augusto, tu che impressione hai avuto? Perché è successo quello che Davide Cassani ha descritto? Pier Augusto, mi senti? Sì, ora ti sento. Mi senti? Ok. No, sì. Dicevo, perché è successo quello che Davide Cassani ha descritto? Cioè, una prima settimana di crescita, poi questa crescita si è fermata fino al crollo di ieri. Difficile dire il perché è successo, perché non ce lo sta a spiegare neanche Vincenzo. Io ci ho parlato anche l'altra sera nella conferenza stampa che ha tenuto a Ortisei, ci siamo trovati per una decina di minuti io e lui, e mi ha ripetuto quello che grosso modo ha ripetuto poi anche agli altri, che lui si sente bene, non ha nessun disturbo. Non ha nessuna limitazione, non si sente né svuotato, ma si sente forte, infatti fa delle cose da persona forte, lo riesce a fare per una breve durata di tempo e poi d'improvviso si spegne la luce, d'improvviso sembra che abbia un limitatore di velocità, arriva, sì, fino a un certo punto e non è quel punto è troppo poco per uno come Vincenzo Nibali. Lui questo non riesce assolutamente a comprenderlo, così come d'altra parte hanno ripetuto anche il suo allenatore Paolo Slongo e anche il medico societario, il dottor Magni, che ormai ha confermato che a livello fisico sta bene. Adesso comunque domani mattina dovrebbe fare questi esami, questi accertamenti clinici e vedere cosa c'è. E lo stesso Slongo ha ripetuto tutti i parametri diciamo biomedici che hai a livello di VAT, sono tutti numeri molto confortanti, quindi al momento la scienza dice che Vincenzo Nibali sta bene. Il problema tecnica, è che sulla strada, e la tecnica invece, Davide Cassani, che cosa dice? Cioè, c'è una spiegazione tecnica? La spiegazione tecnica è che lui ha corso da corridore più forte quando alla fine non lo era, perché è sempre stato lui il primo ad accendere le micce, è sempre stato lui a cercare di fare selezione. Nella tappa di Corvara erano rimasti in otto, a quel punto lui è scattato e quando si è accorto che Valverde era in difficoltà ha prolungato il suo allungo, è andato in debito e non è riuscito più a riprendersi. Vuol dire che c'è qualcosa che non va, non so per quale motivo, ma non riesce a fare questi fuori soglia, non riesce ad avere quella tenuta che è sempre stato il suo forte. Forse gli mancano 20 watt, vuol dire che ha una condizione che non è 100 ma è 90, questo non gli permette di stare con corridori come Cruyff e Chavez. Ha considerato Valverde l'avversario più pericoloso quando invece erano altri. Se Nibali, nonostante non sia al 100%, fosse stato a ruota, poi l'avremmo criticato perché sarebbe stato sempre a ruota, ma comunque se lui fosse stato sempre a ruota sarebbe secondo in classifica a pochi secondi da Cruyff. E quindi non ha saputo gestire una situazione che alla fine non era quella che lui pensava, vuol dire che con la testa ha fatto certi ragionamenti che non sono stati seguiti dalle gambe. Sì, ma possiamo dire che ha sbagliato tattica, oppure dire che Vincenzo è un corridore così, che vive anche sull'improvvisazione, Vincenzo, sulle fantasie. È un corridore che quando è forte, quando è in forma, non sbaglia niente e a volte gli capita di fare dei piccoli errori quando la condizione non è ottimale, vuol dire che lui cerca sempre di ragionare nella stessa maniera sia quando va al 100% che quando è al 95%. Grazie Davide, buon lavoro. Grazie a Davide Cassani. Prosegui invece con Pier Augusto Stagi. È un giro che comunque quantomeno Pier Augusto non ha mai avuto un proprietario se non Cruyff, che adesso è lì davanti, e quella maglia rosa credo che tenterà di difenderla in tutte le maniere. Però è un giro che ha cominciato a perdere Landa, è un giro che ha perso diversi pezzi da 90 per strada. Ieri si è visto Valverde, ma soprattutto lo squalo che non c'è. Sì, ha perso perso tanti pezzi importanti e forse anche questo ha contribuito a rendere più complicata la situazione, perché con la perdita di Landa a tutti gli effetti Nibali aveva la soluzione di vincere, non poteva più sbagliare. E come ricordava Cisticastani, in realtà la sua condizione a quanto pare non è ottimale, e se solo fosse stato un attimino più prudente, certo è facile dirlo adesso, perché poi lui è un corridore sanguigno, un corridore istintivo, orgoglioso. Ieri è stato tradito probabilmente dal suo orgoglio, perché tutti nel dopocorsa non ce n'era uno che diceva: ah, ma se fosse stato tranquillo sulla sua ruota e aspettava che si muovessero gli altri, non sarebbe probabilmente però, Vincenzo Nibali, no? Però non sarebbe Vincenzo Nibali, è sempre lì il discorso, no? Non puoi cambiare le caratteristiche o comunque l'attitudine di un uomo. Lui ciclisticamente parlando è così, è uno che quando gli gira prende e va. E fino a metà corsa ci ha fatto veramente divertire, se ti ricordi, che abbiamo dato in diretta, no? La stazione sì, che aveva messo all'angolo Chavez, Maika e Pozzovivo. In quel momento stava a tutti gli effetti lottando per il giro ed era secondo in classifica. Poi è riuscito a portare via il gruppetto, si sono trovati una quindicina di corridori e da lì è cambiata radicalmente la corsa, non è stato più lo stesso. Non si può cambiare un atleta. Il problema è che appunto con il ritiro di Dumoulin prima e di Landa poi, a quel punto Nibali si è trovato spalle al muro. Solo un risultato per lui era possibile: vincere il suo secondo Giro d'Italia. È probabilmente rimasto schiacciato dal peso del suo ruolo, è rimasto schiacciato da una condizione non ottimale che lui non ha saputo leggere, perché questa è la cosa che io faccio fatica, se gli devo muovere una punta è questo. Sì. È la prima volta che un atleta dice non so il perché non vado, perché generalmente i corridori hanno una sensibilità eccezionale, riescono veramente a leggersi come sì. Nessun altro, neanche il tuo allenatore riesce poi alla fine a entrare dentro di te, a te non te la racconti, con te non ti racconti un'altra storia, e allora poteva benissimo stare un attimino più prudente. Poi, come ha detto giustamente il CT, se fosse stato un pochino più passivo, magari qualcuno avrebbe detto però non è il solito Nibali, ma in ogni caso poteva aspettare questa settimana dove aveva già pagato, avrebbe potuto essere più passivo e aspettare venerdì e sabato. E poi guardi, io adesso te lo dico adesso, il modo di correre di Nibali è uno e uno solo a questo punto, perché non interessa che salti in aria. A questo punto stai lì bello tranquillo, cerchi di stare il più possibile con Valverde, la maglia rosa, e che si muovano gli altri. Poi certo. E vabbè, è andata così. Però visto che ci saranno delle salite che arriviamo a sfiorare il cielo, arriviamo a sfiorare i 3.000 metri, la selezione viene da sé. Non c'è bisogno di fare delle grandi accelerazioni. Sì, basta cercare in tutti i modi di stare bene e vediamo quello che viene fuori. E vediamo quello che viene fuori, però se la condizione è questa mi sembra difficile un ribaltone. Ci sentiamo domani, Piero Augusto, grazie. Molto Giro volentieri, d'Italia. Ciao, Piero Augusto, stagio dal Giro d'Italia. Jerry De Rosa, che piacere, da Sky. Ciao. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Sta raccontando dei playoff del basket italiano. Se vuoi, anche in questo caso più difficili da leggere rispetto al Giro d'Italia di Nibali, perché ieri sera Reggio Emilia praticamente non è sceso in campo ad Avellino e ha beccato un quarantello abbondante. Esiste una spiegazione: serie sul 2-2, quindi serie ancora estremamente aperta, ma può essere un campanello d'allarme, una spia rossa per Reggio Emilia, che è la mia personale favorita per la finale. Altro che un campanone d'allarme, campanone. Perché 46 ore dalla fine di gara 4 all'inizio di gara 5 di domani sera sono pochissimi per medicare tutte queste ferite. Reggio Emilia è uscita non solo sconfitta, ma proprio uccisa nel morale, nella fiducia nei propri mezzi, nella consapevolezza che di essere una squadra vera, compatta, con tante armi a propria disposizione. È vero che, come dicono tutti, come ha detto giustamente Sacripanti ieri sera, l'allenatore di Avellino, è che vinci di 50 o di 1 è sempre un punto nella serie, è verissimo, però è altrettanto vero che la dimostrazione di forza data ieri da Avellino è sicuramente nella testa dei giocatori, e qui starà proprio la bravura, la forza mentale dei giocatori da una parte e dall'altra, di dire non siamo quelli di gara 4 per quanto riguarda Reggio Emilia, tiriamo fuori l'orgoglio e facciamo vedere che siamo i vice campioni d'Italia, che l'anno scorso abbiamo sfiorato lo scudetto, e per Avellino invece di in un certo senso dimenticare la facilità con cui hanno vinto ieri, perché poi bisogna saper gestire anche vittorie come queste in serie così ravvicinate. Sì, non ti aspetti qualcosa del genere in una serie che fino adesso era stata molto equilibrata. Quanto all'altra serie, da lì potrebbe uscire la sorpresissima, perché Venezia può portarsi sul 3-1 contro una Milano che è stata l'altra sera agghiacciante. Sì, anche questo è difficile da spiegare, è difficile da comprendere. Di sicuro Milano sta scherzando con il fuoco. Nei playoff non puoi pensare di giocare una partita sì e una no, o per meglio dire, Milano in questa sera ha giocato un tempo in tre partite, il primo tempo di gara 2, perché poi anche il secondo ha visto il ritorno di Venezia. E quindi cominciano a essere due partite e mezzo nettamente a favore di Venezia, e se dobbiamo giudicare da questo, Venezia a questo punto è favorita. È vero che tutti diciamo dall'inizio dell'anno che Milano è nettamente più forte, che è più lunga, più potente, ma i dati, i risultati sono altri. Rischia di finire come le ultime stagioni, salvo una. Sì, sì, sì, ma poi nei playoff, sai, i nomi e la palmarès, il curriculum dei giocatori contano relativamente se questi giocatori non giocano di squadra. Nei playoff giocano i due giorni e vince la squadra, a meno che non ci sia chiaramente dall'altra parte Michael Jordan, ovviamente. Ma la Milano non è assolutamente una squadra in questo momento, non ha un'identità. Un po' tardi per arrivare ad accorgersi di non essere una squadra e di non avere un'identità. Decisamente. E quindi qualche responsabilità si può anche individuare, lo faremo certamente a voce ferme. Jerry, diamo un'occhiata invece anche a quegli altri playoff, quelli che ci tengono svegli di notte, perché lì c'è aria di una sorpresa clamorosa con anche qui non è facile. Oklahoma City sul 3-1 contro Golden State, mentre Cleveland Toronto 2-2, però Golden State a un millimetro dall'orlo del burrone dopo aver fatto il record dei record di tutti i record in stagione regolare. Sì, anche qui non è facile trovare una spiegazione. L'unica che mi viene in mente a vedere le partite è che Golden State è arrivata a questi playoff decisamente spompata, sì, emotivamente e fisicamente. E il fatto che Curry, che ha stupito tutti quanti, perché per le cose che ha fatto con un fisico tutto sommato normale, alla fine stia pagando questo fisico tutto sommato normale. E la potenza atletica, fisica di Oklahoma City, se giochi contro Oklahoma City e non sei al 100% fisicamente, rischi tantissimo. Infatti Westbrook sta impazzando in ogni parte del campo, in ogni momento, singolo momento delle partite. Però c'è sicuramente dell'altro, perché Golden State non ha mai perso quest'anno due partite consecutive e le ha perse adesso. C'è qualcos'altro che è saltato nei meccanismi di questa squadra, e Oklahoma ne sta approfittando alla grande. Sì, la sensazione è che si sia consumata nella ricerca di quel record in regular season, cosa che è anche plausibile. Ho fatto il giochino di Obama sia con Gallinari che con Berinelli che con D'Antoni nei giorni scorsi, e tutti mi hanno dato una sola risposta finale: Cleveland. Sì, che comunque sta facendo la sua bella fatica dall'altra parte, perché Toronto sta onorando perfettamente questa finale di conference. Però tutto sommato direi che se si guarda adesso, Cleveland è chiaramente favorita per la vittoria finale. Però stiamo parlando a bocce non ancora totalmente ferme, sia in Italia che in NBA, e la bellezza del basket è lì pronta a smentirci, a farci fare brutte figure. Però evidentemente Cleveland, anche comunque al di là del record di Golden State, ha avuto una stagione di estrema continuità, di estrema solidità, e quindi è ovvio che in questo momento è la grande favorita per la vittoria finale. Grazie Jerry, buon lavoro. Ti seguiamo. Grazie su Sky. Anche a voi. Ciao a tutti. Ti seguiamo su Sky nel racconto dei playoff italiani, Jerry De Rosa. Vediamo se riesco a parlare con Enrico dalla provincia di Salerno. Buongiorno Enrico. Buongiorno, buongiorno. Minutino, dica. Niente, io a proposito della questione dell'allenatore, mi pongo questa domanda: ma è una questione di allenatore o di giocatori? Nel senso che prospettiva ha un allenatore che si prende la nazionale italiana e che è una squadra che attualmente, se riesce a superare il turno agli europei, già ha fatto il suo dovere. Voglio dire, chi è il fuori classe con cui, su cui possiamo puntare? Balotelli, che non è stato no, nemmeno convocato, sparito nelle nebbie padane, tra le nebbie padane, quelle inglesi ormai dal dopo mondiale. Che non sia la nazionale più talentuosa di sempre è vero, e lo sappiamo, l'abbiamo ripetuto molte volte. Che la sfega ci abbia dato un'occhiata levandoci Verratti, che era un giocatore secondo me per questa nazionale fondamentale, è pure sacrosanto. Io aspetterei a vendere la pelle dell'Italia, perché in ogni competizione internazionale riesce comunque a tirar fuori qualcosa di nuovo e di diverso. Chiaro che il talento, soprattutto offensivo, è quello che abbiamo tutti sotto gli occhi. Ci sentiamo domani, magari torniamo a parlarne, anzi di certo. Ah, domani puntata speciale sulla finale di Champions League con un sacco di ospiti, eh. Già ve l'annuncio, non perdetevela. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia e Federico Bindi in redazione. Arrivederci ragazzi, ciao!